Quando Basilica si menionano, tu me natare na, ci malo giorno, tu me natare na. Ci malo giorno. E se vuoi lo mego rozzo, ti lo manno. Lo domi la mannari al ritorno. Lo domi la mannari al ritorno. Alle carnozzi tua sciavuro fanno, cagole sciauracci passa lo sonno, cagole sciauracci passa lo sonno. Appetto che se io t'avessi a me comanno, domani mi sussessi a manzuorno, domani mi sussessi a manzuorno. Io.